State per ascoltare la replica della trasmissione Edit del 1 luglio 2007 con Enrico Di Troia. Broadcast Italia. La storia e le voci delle radio quando erano libere. Broadcast Italia presenta Edit. حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Ma Profetico. Se gli Ari avessero saputo nel 1973 che sarebbe successo tutto quello che è successo nel mondo, dopo questa canzone che avevano fatto, che si chiamava Luglio, Agosto, Settembre Nero, erano altri tempi, Settembre Nero era un'organizzazione araba abbastanza agguerrita, e lo continua ad essere in qualche modo. Benvenuti a Broadcast Italia, benvenuti a Edit, benvenuto Enrico Di Troia, benvenuti a voi che siete dall'altra parte con il vostro computer sintonizzati su Broadcast Italia. È molto bello sapere che sul nostro sito, che è su YouTube, ci sono molti amici che si sono sottoscritti dopo che ci hanno ascoltato, e io volevo salutarli. C'è Digital Drum, che lo conosco, Marianne Quizzi, che lo conosco, Super Pigul, che non conosco, Cipango, Vivi Natale, Dicky Land, Marco Angelico, Gabri Rai, Pau De Rande, Manfroncelli, che conosco, Paul Tubo, che non conosco, Lola Plerot, che non conosco, Resiolotto, con un bel gatto, e Ninchix. Grazie a tutti voi che vi siete sottoscritti su Broadcast Italia. Un saluto, speriamo che siate in ascolto, e se non siete in ascolto ci riascolterete in replica da qualche altra parte. Bene, questa sera abbiamo cominciato con un brano degli Area, e siccome comincia a fare abbastanza caldo, che cosa facciamo noi nel frattempo, dopo tutto quello che succede nel mondo? Ce ne andiamo sulla spiaggia, e sulla spiaggia che cosa ci piace ascoltare? Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti, e rimango da solo nella sabbia, nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni che passano pigri lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. A un certo punto, un giorno ero andato su Second Life e mi ero messo sdraiato col mio avatar su una sdraietta. Siete mai stati su Second Life? No, non lo fate, è inutile, è una perdita di tempo assoluta. Stai lì delle ore, cammini con questo pupazzetto, con questo avatar. Dunque, che abbiamo sentito prima era sapore di sale, e io vorrei sentirne un'altra di questo sapore di sale. Vediamo com'è cambiata sapore di sale nel tempo, sempre dal vecchio Gino Paoli. Sapore di sale. E chi è questo? Sapore. Chi è? No, perché no? Come no? Senti, Ricky, tu hai scritto molte canzoni. È vero, Gino. Ah, tante. Ah, parlano tra loro. Ok, sentiamo. Perché io sono un tuo ammiratore. Tutte quelle belle canzoni che tu hai scritto, che tu non canti stasera, le canto io. Cioè, tu, cosa vuoi dire? Tutte quelle belle canzoni che tu hai fatto. Fai un esempio. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a lui, vicino a lui. L'hai voluto tu. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute. Ricky Gianco insieme a Gino Paoli. Cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Qui il tempo è dei giorni che passano fieri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia del sole. Torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare. Sapore di te. Questo succede quando ce ne andiamo al mare. È sempre bello ascoltare la musica che è stata costruita per il mare, per l'estate. Ma se improvvisamente ti capita di andare a casa e sta arrivando una fanciulla che ti suona alla porta all'improvviso, mezza nuda, tu che fai? io sto già tremando d'amore. Lei viene qui questa sera, solo una questione di ore. Spero di non morire vedendola entrare, potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale. Lei verrà o non verrà? Lei verrà o non verrà? Sfiorare i capelli col respiro del mio cuore. Le voglio accarezzare le mani con sguardi leggeri, con frasi d'amore, d'amore, d'amore, d'amore, d'amore. Ti amo, apro e stringo già la sua mano, poi la guardo mentre cammina, mentre siede vicino, intanto che mangia di gusto la carne, il caviale ed il resto. Si alza e chiede dove c'è il letto, poi scompare dietro la porta. La sento, mi chiama, la vedo in pigiama. E lei si avvicina, e lei si avvicina, vicina, vicina, vicina, vicina, vicina. Dio mio no, Dio mio no. Cosa fai, che cosa fai? Dio mio no. Cosa fai? Dio mio no! No, no! Grande jam sessions questa di Lucio Battisti. Dio mio no. All'organo Dario Baldan Bembo. Al tamburello Flavio Premoli. Alle chitarre Francone Mussida. Batto 4 e finiamo, ha detto Lucio. 1, 2, 3, 4. Ha! Siete all'ascolto di Edit, broadcastitalia.it. Oh! E se questa fanciulla a un certo punto, come è successo a molte persone oggi, torna a casa tutta rossa, che succede? Ah no, di nuovo? Di nuovo Gino Paoli? No, vabbè, questo è il finale. C'era un altro sapore di sale che avevamo preparato da qualche altra parte, ma quella la sentiremo dopo. Adesso, invece, se lei arriva tutta abbronzata, che succede? Succede che c'è un signore a cui piaceva moltissimo cantare d'estate, aveva una voce praticamente molto acquatica. Dicevano che lui e Umberto Bindi e lui erano i più acquatici in assoluto. Questo è un LP, la puntina sta lentamente andando sul solco, dovrebbe partire, eccola qua. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. D'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. D'amor, quando l'altro giorno sono andato in una località vicino alla città che si chiama Roma, e questa piccola località si chiama Fregene. E sono andato lì per vedere il tramonto, per godermi un attimo il mare. E sono arrivato sulla spiaggia, piena di grandi stabilimenti di cemento armato. Il mare non si vedeva. Non si vedeva il mare. Tu fai il lungomare di Fregene e il mare non si vede. C'è una quantità di stabilimenti che ti impediscono di vedere il mare. Dovresti viaggiare su un elicottero. Ma poi quando arrivi sul mare, allora ti siedi sulla spiaggia e finalmente dici: adesso prenderò questi raggi di sole al tramonto e sentirò l'odore del mare. Odore del mare? Niente. Allora, niente, mi sono seduto a guardare il mare giù in fondo, verso il tramonto, verso i raggi di sole, e vedevo quest'acqua del mare, che non odorava di niente, marrone, come l'acqua del gabinetto dopo che l'hai fatta e sta lì per un bel po'. È una cosa bellissima, bellissima. Vediamo Gino Paoli, invece, come ha trasformato la sua sapore di sale, visto che il sapore di mare nisba. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore. Sapore di mare, magari ci fosse, ma a Fregene il sapore di mare non si sente proprio per niente. Ma ci sono tanti stabilimenti, quindi si va al mare tutti truccati, si va al mare con l'orecchino, con l'iguana al guinzaglio sotto la sdraio. Insomma, sono pittoreschi i romani quando vanno al mare, ma che ci vanno a fare, non lo so. Poi vanno lì con le macchine, si urlano, strombazzano. E meno male che ogni tanto il diavoletto ci mette le pentole e i coperchi. Broadcast Italia, Edit, Enrico Di Troia al microfono con voi. Sì, ciao Mena. Sentitemi un po'. Un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice vieni che nessuno vede, ho tutto quello che ci vuole per te. E sacundi, sacunda, sacundingundingunda. Ci penso un bel po' e lui continua con la voce suadente. Avrai vestiti, la bellezza, l'argento. Adesso invece c'è la noia per te. E sacundi, sacunda, sacundingundingunda. No! stai bene? Sentivo già venirmi la tentazione, però alla fine gli rispondo così. E caro diavoletto, prima l'arrangiamento di Sapore di Sale, il primo era fatto da Ennio Morricone. Un grande saluto a Ennio Morricone, che ha preso finalmente l'Oscar per la sua musica. E al sassofono c'era un signore che si chiamava Gatto Barbieri. Nella versione che abbiamo ascoltato poi, no, poi ce n'era un'altra ancora. Tre versioni di Sapore di Sale, non capita spesso. Ma spesso i bambini con le mamme vanno al mare e i mariti restano in città, e restano in città con... Arriva l'estate, che caldo infernale, le case infuocate, ognuno sta male, soltanto le mogli son tutte partite con mille bagagli ai monti e dal mar. La moglie se ne va, il marito sta in città, il povero marito rimane incustodito. La moglie se ne va, ma il marito pensa già a quella scappatella che da tempo vuole far. Oh, quant'è buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiar. La moglie se ne va e il marito sta in città, il povero marito rimane incustodito. La moglie se ne va e il marito sta in città, è solo e abbandonato ma si sente un gran pascià. Ti piace l'ancella, vuoi far l'avventura, però stai tranquillo, la cosa non dura. Ne dici di balle, l'hai quasi convinta, ma torna al più bello, la dolce metà. La moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito. La moglie tornerà e la cosa sfumerà, e quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiar. La moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito riprende la sua vita. La moglie tornerà e il marito pensa già a quella scappatella tanto bella che non fa, a quella scappatella tanto bella che non fa, a quella scappatella tanto bella che non fa. Grande Domenico Modugno, siete all'ascolto di Broadcast Italia, questo è Edit insieme a Rico Di Troia con voi al microfono. Questa era una vecchia sigla che usavo per la Luna al mercato di stracci. Un programma che, quando andrete sul sito di Broadcast Italia e cercherete la Luna al mercato di stracci, probabilmente potrete risentire in streaming tra i vari programmi che abbiamo conservato e collezionato nel nostro sito. Come mai questa sera non hai messo musica rock? Non hai messo jazz? Ma ti sei portato i 45 giri e i vecchi dischi degli anni 60? Ma come, questa è una radio degli anni 70? Vabbè, è così, è estate, uno si rilassa. Mariti in città, Sapore di Sale. Siete già in vacanza? E se siete in vacanza non siete al computer. Siete al computer anche se siete in vacanza, ma allora siete malati. No. L'estate è anche un momento in cui ci si rilassa a tal punto che si riesce a innamorarsi. E quindi c'è qualcuno che poi scrive delle canzoni come questa. Una canzone che andrà in onda tra breve, di un altro personaggio. Questo era Tony Esposito e la signorina che è lì, con un'orchestra diretta dal maestro Bruno Canfora. Mina! Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento. Soltanto questo che desidero da te. Vorrei che fosse amore. Quante canzoni d'amore abbiamo ancora qui nel nostro sacco questa sera? Edith, Enrico Di Troia al microfono con voi, broadcastitalia.it. Ci sono delle canzoni che tanti anni fa abbiamo ascoltato e canticchiavamo quasi senza renderci conto di cosa dicesse il testo. E questa è una canzone che parla di qualcosa che d'estate spesso succede. E parla di un suicidio. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene né dove va. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Bonnui, bonnui, bonnui, bonnui, buonanotte. va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà quell'uomo in frac? Adieu, adieu, adieu, adieu, addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Versione rigorosamente originale di questa bellissima storia di un uomo che sul ponte pensa di non esserci più. Ma diceva un mio amico, diceva, c'è un legame per noi ragazzi che facevano la radio negli anni 70 che ascoltavano questa musica, perché noi l'ascoltavamo da bambini chiaramente, quindi poi ce la siamo portata dietro. Ma noi negli anni 70, per altri motivi, anche per un diverso gusto, ascoltavamo invece questo. Yeah. per spezzar poi tutto con radicalità. Era molto il mondo da quando gli Aria cantavano Elefante Bianco? Quando d'estate si scendono le scale con il sacco dell'immondizia che cola perché hai mangiato il cocomero o il melone e trovi le macchie nere sulle scale e hai capito che c'è qualcuno che si è fatto tutte le scale e ha scolacchiato, lo segui praticamente dal secondo piano, terzo piano, perché poi lo scopri, trovi tutte quelle goccette nere, diceva il signor Formica, un bravissimo comico, diceva, e arrivi piano piano fino al cassonetto e lì, perché poi i signori d'estate, quando rimangono solo, se ne vanno a fare la spesa da soli al supermarket, per quello che... Supermarket giovedì, tu lavori lì, direttore tu lo sai, dimmi dove è lei, non c'è, non c'è, ammalata forse, comunque qui non c'è. Le banane comprerò, ma però dove è andata stamattina non lo so. Scatolette colorate, carni rosa congelate, c'è di tutto intorno a me, ma lei non c'è, no. Supermarket venerdì, tu lavori lì, dimmi ieri come mai tu non eri qui, tutta colpa della frutta, ne ho mangiato troppa e così sono stata a letto giovedì. Fortuna oggi stesso finirà. In pochi conoscono questo Lucio Battisti Rhythm and Blues. Una registrazione molto live. Sentite che chitarre. Francone Mossida, Lucio Battisti. E quello della Formula 3, come si chiama? Intanto chiedo a qualcuno, conoscete questo disco di Lucio Battisti dove faceva praticamente tutto dal vivo? No, mai sentito. Ma come? L'album si chiama Amore non amore. Se lo trovate in CD, compratelo perché è eccezionale. C'era un mio amico che la sapeva fare tutta. Bravissimo. Tanti dischi di rhythm and blues ascoltava Lucio quando era molto giovane a Milano. E finisce così il viaggio al supermarket del signore che va a fare la spesa. Ma visto che fa molto caldo, c'è un gruppetto di persone che ce la raccontano questa storia quando fa molto caldo. Eccoli qua. Girano pure diversamente, ovviamente. Un'altra tonalità. Quando calienta il sole qui sulla spiaggia, fine. Oh, oh, oh, quando calienta il sole, quando calienta il sole, quando calienta il sole, sole, sole. E qui quando calienta il sole, giù a palla quei condizionatori d'aria, per cui non puoi aprire più la finestra perché praticamente dal palazzo di fronte ti arriva questo ventolone di aria bollente, un po' come quando sei sulla moto e ti fermi al semaforo e tutte le macchine ti si avvicinano e ti soffiano 60 gradi di aria calda mentre sei lì e ti sciogli direttamente sulla moto perché c'è la macchia sulla sella, c'è la macchia perché mi sono sciolto. Bene, siete all'ascolto di Broadcast Italia, questa è Edit insieme a Enrico Di Troia. Questa sera una trasmissione piuttosto particolare, siamo in viaggio tra sensazioni estive e sensazioni esaustive, ma d'estate ci si incontra, ci si innamora e poi ci si accorge pure che si è incontrata una un po' speciale, e vabbè, una come lei, proprio una così. No. Dario Baldambembo alle tastiere. Franz Di Cioccio alla batteria. Mezza PFM in questo disco. Un disco quasi live. Lucio Battisti. Una. Una che? Una. Una come te. Una. Sei molto bella e neanche intelligente, ma non ti importa niente perché tu non lo sai. Tu vivi per ballare, sei in cerca dell'amore, ma quale amore ancora non lo sai. Oh, io ti apro il mio cuore, tu fai finta di ascoltare ed intanto guardi in giro, vuoi qualcosa da mangiare. Ma perché proprio tu, proprio piaccia. È possibile che mi piaccia una come te. Io cercavo una ragazza con un fiore fra i capelli, tu sorridi a brutti e belli e un giardino in testa hai. Ti accontento in ogni cosa, tutto ciò per una rosa che non ha nessun profumo, che è di plastica oramai. Ah, io ti apro il mio cuore, tu fai finta di ascoltare ed intanto guardi in giro, vuoi qualcosa da mangiare. Ma perché proprio tu nella mia vita, che con te prima ancora di cominciare è già finita. Ma perché proprio tu con quella faccia, è possibile che mi piaccia una. Ma perché proprio tu con quella faccia? Caro Lucio, succedeva anche questo, anche l'estate. Qualche tempo fa ho proposto a qualcuno se si poteva mandare questo brano di Lucio Battisti a qualche grande chitarrista americano per rifarlo. Sentite quanto è bello. Due chitarristi che si seguono da un canale all'altro, Trancone Mussida e, aiutatemi, non mi viene in mente il nome del chitarrista degli La Formula 3. Quello con i capelli lunghi. Vabbè, rimettila da capo. Che mi piace sentirla dall'inizio, così, ok. Seduto sotto un platano con una margherita in bocca, guardando il fiume nero macchiato dalla schiuma bianca dei detersivi. Era un periodo ecologico. Giorgio Piazza al basso, Franz Di Cioccio alla batteria, Alberto Radius alla chitarra, eccolo, Franco Nemussida all'altra chitarra, eccolo, Mario Baldambembo all'organo, Flavio Premoli al tamburello. L'orchestra immagino di Giampiero Reverberi e il grande Walter Patrignani come tecnico del suono. Sentite questo ragazzo come usava gli archi, Lucio Battisti. Thank you. Senti? Adesso mi faccio un regalo, visto che abbiamo sentito questo album, io voglio sentire un altro pezzo di Rhythm and Blues per farvi capire che cos'era questo disco, che cos'era questo momento di Lucio Battisti. E la numero 5, vai, a tutto volume, senti che Rhythm and Blues. Se la mia pelle vuoi, Lucio Battisti. Se la mia pelle vuoi, se la mia pelle vuoi, fa come vai. Il pomeriggio è tu, Allora, dovete pensare che io a quell'epoca gironzolavo con un C4000 della Grundig, che era un radioregistratore, con cui registravo Supersonic e me ne andavo in giro per la Riviera Adriatica ascoltando prima Supersonic e poi c'era, non so se Popoff o Ventura 29 che seguiva, di Carlo Masserini. E c'erano due amici miei che si erano innamorati e questa era la loro canzone d'amore. E io andavo lì dietro le cabine e gli mettevo questa canzone mentre loro pomiciavano. Questo amore mio, questa serata l'ho voluta io, questa allegria che mancava un po' nelle sere in casa tra di noi. La cosa che mi avrei detto poi è che stasera serata l'ho voluta io, questa allegria che mancava. Thank you. Beh, abbiamo fatto contento qualcuno che come me all'epoca, prima di ascoltare, non me l'abbassare così de corsa, un minimo, erano loro? L'hanno abbassata loro così? Vabbè ragazzi, un momento, lasciatemi parlare. No, era un disco che avevo comprato insieme a... Qual era quell'altro? Era Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore. Poi... E da lì sono partite tante storie, da lì poi uno si è appassionato al jazz, al rock e altre cose. Ma per ora c'è una cosa che devo presentarvi. Intanto dirvi che siete all'ascolto di Edit, Enrico Di Troia al microfono con voi, questa è Broadcast Italia. E l'annuncio viene fatto in questo modo, attenzione, di Bixio Cherubini c'è un'orchestra sincopata, canta il trio Lescano. Quando suona, suona e suona, il maestro ancora non sa che nel cuor d'ogni strumento c'è nascosto un sentimento. C'è di fuoco e suo tormento, chi la sua felicità. Suona, suona la cornetta, con dolcissimo languor, fanfarina la civetta, col tasso mono tenor. Il violino innamorato, sospirando suona ancor. Carino si è piattato, zuffolando amor, amor. Fa la gran casa di un papà, e la suocera si sa, che son buone fa l'occhietto, ma non c'è nulla da fa, e di pronto un poveretto si consola. Che si solazza, la ragazza che va pazza e la luna che sghignazza mentre i gatti fanno l'amor. Suona, suona la cornetta con dolcissimo languor, fanfarina la civetta col sassofono tenor. Il violino innamorato sospirando suona ancor, il violino si è piattato su volando amor, amor. Bixio Cherubini, avete ascoltato, c'è un'orchestra sincopata. Ha cantato il trio Lescano. all'ascolto di broadcastitalia.it, insieme a Rico Di Troia al microfono con voi. Herbie Hancock in sottofondo che ci aiuta a chiacchierare un attimo e risvegliarci un po' dai solchi antichi che abbiamo ascoltato prima. Domenico Modugno, c'erano altre cose ancora nel nostro sacchettino che non sono uscite fuori, ma siccome siamo un po' in addirittura d'arrivo, vorremmo senz'altro così salutare anche degli amici, qualcuno che ci ha cliccato su YouTube, sul nostro canale di YouTube, Broadcast Italia. Digital Trom, Marianne Quizzi, Super Pigui, Cipango, Vivina Tile, Manfroncelli, Powderande, Gabriel Rai, Marco Angelico, Dickyland, Paul Tubo, Lola Plattford, Resi di Otto e Nix Chicks. Bellissimo questa qui, Nix Chicks. Bellissimo, grazie a tutti voi che ci avete cliccato sul web. Chissà se ci ascoltate durante il giorno o durante la notte. Voi sapete che andiamo in onda 24 ore su 24 e qualche sera, quasi tutte le sere, in diretta dalle 22 alle 24, ora italiana, perché come sapete la nostra radio web può essere ascoltata anche in giro per il mondo se qualcuno ci clicca all'improvviso cercando chissà cosa. Non saprei come potreste riuscire ad ascoltare noi. Bene, a questo punto c'è qualcosa che preme di là sul piatto e vorrei andarlo ad ascoltare. È un nostro amico, tornerà qui in Italia tra breve e rifarà una sua opera che non ha mai fatto dal vivo, che si chiamava Berlin, ma ora lo ascoltiamo con una sua vecchia cosa molto radiofonica che si chiamava, non me la farà annunciare se non è pronta, si chiamava Sweet Jane. Alza, alza, alza, alza, alza, alza, alza, alza, alza. Sei partito troppo in ritardo, da capo, da capo, da capo, da capo, rifalla, rifalla. Rifalla, non mi piace così, mi piace che parte a palla. Lou Reed, Sweet Jane. Ah, sono proprio loro che l'hanno tagliata così? E vabbè, questa volta m'hanno fregato. Nel disco originale, questa è una piccola antologia, c'era tutta un intro, la quale io me l'aspettavo. Ma ve la porterò una di queste sere. Intanto, Lou Reed, Sweet Jane. Sono andato a cercare un po' dei gruppi anni 70 che io trasmettevo quando facevo la luna al mercato di stracci, quindi Maxophone, qualcosa dei Libra, il biglietto per l'inferno, e mi sono imbattuto in un sito degli Acqua Fragile. Negli Acqua Fragile a quel tempo cantava Bernardo Lanzetti e gli Acqua Fragile sono ancora vivi e vegeti. Presto mi hanno contattato via mail, sono stati molto carini, Franz Dondi, e mi manderanno il loro nuovo disco, CD dove hanno inciso i vecchi pezzi, reincisi e ricantati, perché Bernardo Lanzetti non fa più parte del gruppo, e li riascolteremo presto con noi. Quindi io li ringrazio se per caso questa sera si sono sintonizzati su Broadcast Italia. Enrico Di Troia al microfono con voi, e tra poco ascolteremo qualcosa da questo celeberrimo gruppo degli anni 70 che fece da supporter alla BFM e qualche tempo dopo regalarono il cantante a quel gruppo, che era Bernardo Lanzetti. Il brano che ho scelto è tratto dal loro secondo LP, che si chiamava Mass Media Stars. Ed ecco gli Acqua Fragile con Mass Media Stars. Skip performing all this, I see another lonely highway. Another line, a bunch of comes to tumble local paper. And the winning group is anxious to gently peel your oranges. Your ridiculous and broken down equipment drives you. Nasty attitude, dragging on for one to nanny fatty guys trying to ignore you. Spy the thought musicians sipping hard from their full cans. Anxious to gently peel your oranges. Your ridiculous and broken down equipment drives you, slides you. Nasty attitude, dragging off one to an addy fatty guy's trying to ignore you. We're alone, cheap as hotels and sandwiches, hot sauce. Acqua Fragile, dal loro secondo album, un brano che si chiamava Opening Act. Il cantante qui è ancora Bernardo Lanzetti. Ascolto di Broadcast Italia. Edita il programma con Enrico Di Troia. Ci stiamo girando fra solchi abbastanza particolari. Quello che abbiamo appena ascoltato era un disco degli Acqua Fragile, un gruppo che circolava e circola ancora, è ancora vivo e vegeto, un gruppo di Parma, e presto avremo il loro nuovo album e potremo ascoltarlo. Non ci sarà Bernardo Lanzetti a cantare con loro perché ha abbandonato il progetto, ma come dicevamo prima, Bernardo Lanzetti, dopo un po' di tempo che la Trattoria Marconi cercava un nuovo modo per incidere i propri dischi, cercavano un cantante. Hanno provato con Ivan Graziani e poi decisero per Bernardo Lanzetti. E quello che abbiamo preparato è appunto un brano tratto da PFM. Sempre rigorosamente in vinile. Non so se qualcuno può sentire gli scricchiolii. Patrick Givas al basso, Franz Di Cioccio alla batteria, Flavio Premoli alle tastiere, Francone Mussida alle chitarre, Bernardo Lanzetti. Swallow the dream you lie. So providence called the last friend, herring the charming ocean, patient enough for every problem, silent enough to drown so many good friends. Providence of illusion, a providence whore of fat games, live now alone. Premiato Fornini e Marconi, Chocolates King, l'album d'esordio di Bernardo Lanzetti con il gruppo. Bernardo Lanzetti proveniente dagli Acqua Fragile, che abbiamo ascoltato prima da un album che si chiamava American Stars and Bars. Siamo addirittura d'arrivo, il programma Edit, la programma estivo con canzoncine anni 60, sta tornando leggermente di nuovo, Lock. C'è un altro artista che ci piace moltissimo, che abbiamo riscoperto, anche se ha pensato bene di buttarsi nel Mississippi e di scomparire tra i flutti. E questo è qualcosa tratto dal suo unico album ufficiale, poi esistono registrazioni dal vivo, e una sera di queste faremo una monografia di questo artista. Luciano, fallo partire. L'artista l'avete riconosciuto, è Jeff Buckley, ma il brano che avevamo scelto era un altro molto più radiofonico, e adesso Luciano ci penserà lui, perché qui succede c'è un gran tramestio fra i brani, scompaiono, ritornano. Eccolo, Grease, Jeff Buckley. She cries to the clicking bit of wine, we both might go tomorrow. Oh, my love, and the rain is falling. I believe my time has come. It reminds me of the pain I might Jeff Buckley possedeva una voce eterea e un'incredibile estensione vocale. Si estendeva lungo 3 ottave e mezzo. Sapeva unire magistralmente i suoi differenti registri vocali, la voce che proveniva dal torace, e anche il falsetto era ottimo. Jeff Buckley, figlio di Tim Buckley, hanno fatto più o meno la stessa fine, una cosa incredibile. Questo è il suo primissimo album, unico album in studio. Poi esistono tantissime registrazioni dal vivo che probabilmente ascolteremo quando, in una serata particolare, oltre a quella che vorrei fare sugli Yes, ascolteremo tutte le sue cose e parleremo un po' della sua vita, di quando è nato, di come è morto, di quando un giorno, sintonizzato su MTV, vidi questo gruppo che suonava e ascoltavo distrattamente questa musica. A un certo punto mi giro e faccio: ma chi è questo? Jeff Buckley. Non lo conoscevo per niente e lo sto riscoprendo e lo sto amando di nuovo. Ora, un'altra cosa che amo in modo particolare, soprattutto lui, il musicista. Donald Fagen, dal suo ultimo album, Grande Donald. Thank you very much. Broadcast Italia, edit. Donald Fagen. Dal suo ultimo album, in onda su Broadcast Italia, insieme a Edith. Luciano la console. Ogni volta che esce un nuovo album di Donald Fagen è un piacere per l'ascolto, per noi vecchi appassionati. Si fanno le prove con le casse, si riascolta, si sente, si cerca di capire e poi nel tempo riesci a studiarlo, a capire i giochi degli strumenti. È vero che lui ingaggia strumentisti, grandi strumentisti, soltanto per fare piccole cose, ma che sanno fare perfettamente. Ancora un'altra traccia da questo album di Donald Fagen. Rich Gang. I hear Denise is back on the outside. She's got a wicked plan. She's calling in the gang sisters again to form the ultimate five-chord band. For 8 months now in that freaking cell, she's been knocking ideas around. Now she's good and ready to make a big noise right here in her viaggia bene per radio la musica di Donald Fagen, H-Gang. Non lo lasceresti più. Io quasi quasi mi sentirei un altro brano da questo album. Musica che accende la radio. Viaggio leggera ma con gran classe. Ci avviciniamo al finale, ci avviamo al finale della nostra trasmissione. Holly came from Miami, FLA. Salutando ancora una volta un artista che verrà a Roma per suonare dal vivo la sua opera Berlin. Sarà una serata eccezionale. Sono passati già per Roma a suonare Jan Garbarek domani. Roy Ayers, Patti Smith, Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Siamo stati piuttosto bene insieme questa sera. Diciamo che la seconda parte del programma è quella che è più congeniale, ma qualsiasi tipo di musica c'è. Cerchiamo sempre di scegliere quello che più ci appassiona, più ci emoziona. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Tutto quello che ci fa muovere davanti said, al microfono. Hey Joe, take a walk on the wild side. Siamo stati qui per voi questa notte. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. O questo giorno, stasera, di giorno ad ascoltarci. Looked for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. Luciano ci ha assistito per la parte tecnica. Ha. Abbiamo viaggiato attraverso musica italiana di altri tempi, ma abbiamo iniziato con un brano profetico, un brano degli Area che si chiamava Luglio, Agosto e Settembre Nero. Take a walk on the wild side and the colored girls say do. Poi abbiamo avuto bisogno di un po' di rock a un certo punto. Jeff Buckley, Donald Fagen, Lou Reed, Mina, Domenico Modugno, il Trio Lescano. Anche per questa notte Enrico Di Troia vi saluta e vi dice usciamo più spesso a vedere la luna. Buonanotte. Broadcast Italia ha presentato Edit. Broadcast Italia, la storia e le voci delle radio quando erano libere. Avete ascoltato Edit del 1 luglio 2007, in compagnia di Enrico Di Troia.